Partiamo da che cosa è successo in Inghilterra e in Gran Bretagna negli ultimi 5 anni. C'è stato un nuovo Telecommunication Act nel 2003, c'è stata la creazione di un nuovo regolatore e l'apertura dell'ultimo miglio per facilitare lo sviluppo della banda larga. Questo ha portato obiettivamente a un'accelerazione dello sviluppo della rete e ha fatto sì che l'Inghilterra si portasse da una posizione di fanalino di coda, con una bassa penetrazione della banda larga, a una delle nazioni dove più è diffuso questo servizio. Il governo si rende conto che siamo a ridosso di una fase di una nuova rete, potrebbe essere fibra ottica, potrebbe essere super DSL, ma insomma aumento della velocità, e vuole rendersi conto, capire se esistono degli ostacoli, dei rischi, delle problematiche che potrebbero impedire all'Inghilterra di continuare in questo sviluppo della rete e capire se questi problemi potrebbero mettere il paese in una condizione, magari anche solo temporanea, di svantaggio competitivo rispetto ad altri paesi. Senta, quali sono i rischi che sono connessi ad un'attività di questo tipo? Cioè, pensare oggi a tecnologie che dovranno essere implementate nei prossimi anni. È sicuramente un'attività rischiosa, visto che fra un anno potremmo vedere ADSL a velocità incredibile e magari il governo britannico potrebbe pensare invece di investire sulla fibra. Penso che sia opportuno ricordare che il governo si muove comunque in uno schema che lascia al mercato e agli attori del mercato, utenti e investitori, clienti, aziende e clienti consumatori, la decisione ultima sulle tipologie di investimento. E che quindi la preoccupazione non è legata in questo momento a capire e identificare la tecnologia vincente o gli ammontari da investire come governo, quanto a capire quali siano le regole del gioco e se vanno modificate per facilitare ulteriori investimenti. Senta, quanto vale l'investimento che un paese fa in ICT sul prodotto interno lordo, comunque sul sistema paese in generale? Parlando di numeri molto aridi ma molto chiari, la Comunità Europea parla di un mercato delle telecomunicazioni e della banda larga in generale che in Europa ha raggiunto i 300 miliardi di euro, che dà un'indicazione dell'ampiezza e della forza, della quantità, della rilevanza del settore. Ma proprio in questi giorni, con un gruppo in Inghilterra che raccoglie i vari attori, i broadcaster, le televisioni, gli utenti, si sta cercando di mettere insieme una valutazione dell'impatto che questi investimenti hanno sul prodotto interno lordo. Proprio perché ci si rende conto che se si guarda solo al numero o ai numeri relativi al settore, si perde la componente più importante e qui stiamo guardando il lievito invece di guardare alla torta. E stiamo cercando di capire, ovviamente col beneficio dell'approssimazione, di mettere dei numeri intorno ai risultati che si hanno da questi investimenti, che è il motivo per cui il governo è interessato. Ci sono dei paesi ai quali lei guarda, o comunque il governo britannico guarda, in una situazione che comunque è una situazione ottima, nel senso che nel mondo la Gran Bretagna è ritenuta uno dei paesi che a livello di ICT è tra i più sviluppati. Sicuramente c'è una forte attenzione ai paesi dove si sta osservando un'accelerazione dello sviluppo della fibra ottica in particolare. Allora lei ha da una parte i paesi dell'estremo oriente come la Corea, Singapore e il Giappone per certi versi, che hanno iniziato da qualche anno una politica di investimento o privata o pubblica nell'accelerazione dello sviluppo della fibra, e dall'altra parte gli Stati Uniti dove le grandi aziende commerciali, Verizon e AT&T, hanno nell'ultimo anno, anno e mezzo, accelerato lo sviluppo della fibra e capire se e quali sono le condizioni per cui quelle decisioni di investimento su queste nuove tecnologie possono essere o di interesse o comunque perseguibili in Inghilterra. Resta poi il tema dell'Europa continentale perché anche e soprattutto come membro della Comunità Europea il governo inglese si pone la tematica di capire la competitività relativa rispetto a che cosa sta succedendo in altri paesi europei.